Svegli tutta notte vampiri, su un divano bianco sembriamo un enorme nigiri, e ci capiamo anche solo con due respiri. Parlare con gli altri come parlare con Siri. Questa vita a volte ti imbroglia, ho confuso noia e soia. Noi siamo tutta un'altra storia, gli altri una copia, fake, sosia. Confondo mezzanotte e mezzogiorno, sotto gli occhi due Louis Vuitton. Sei tu il motivo per cui perdo il sonno, in Italia con il fuso di Hong Kong. Quest'estate io resto in città, che importa, parto un'altra volta. Sogniamo un viaggio in Asia, invece sei arrivato tu, sei arrivato tu. Ma chiamiamo Deliveroo. Avvolti nelle coperte, sembra un burrito te macchi. Guardami, ho il cuore verde, al gusto wasabi. Sto in bilico, senza pericolo. Tu mi credi un angelo ma ti sbagli. Equilibrio chimico, veleno antidoto. Ho gli occhi ribaltati come Billie Eilish. 3000 messaggi sulle phone, con la scimmia di partire King Kong. Tu sei una scusa valida per fare un backflip. Mandami le foto da Hong Kong. Quest'estate io resto in città, che importa, parto un'altra volta. Sogniamo un viaggio in Asia, invece sei arrivato tu, sei arrivato tu. Ma chiamiamo Deliveroo. Un sol levante nel letto, facciamo un Japan tour per smaltire il maratone.